adesso abbiamo una bella intervista, Lucre. Sì, perché appunto, come stiamo dicendo spesso in questi giorni, è bello perché finalmente la musica sta tornando, la cultura sta tornando, ovviamente in un modo un po' più ridotto, però sta tornando, quindi è il motivo per cui sono tornate le nostre interviste musicali e culturali. Ed è bello, e noi Radio Città Fujiko e Fujiko Factory appoggia il ritorno del mercato sonato, perché proprio oggi prende il via la quinta stagione. Il mercato sonato è l'ex mercato rionale di Bologna con l'orchestra Senza Spine in collaborazione con il comune, il quartiere San Donato, San Vitale, che ha trasformato in un teatro urbano unico nel suo genere in Europa. Viene inaugurato oggi, mercoledì 30 settembre, fino a domenica 4 ottobre. Dopo la pausa causata dall'emergenza sanitaria, che insomma conosciamo tutti a cosa ha comportato, e ritorna con la rassegna Mercato Sonato Immaginari Periferici, frutto dell'omonimo progetto vincitore del bando Creative Living Lab seconda edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea. Ma noi siamo in collegamento telefonico con Tommaso Ussardi, che ci spiegherà un po' tutto. Ciao Tommaso, come stai? Ciao, buongiorno. Sto bene, sono estremamente contento, insomma, di poter dire che il mercato sonato c'è e questa sera riapriamo finalmente dopo mesi bui dove non si sapeva assolutamente che cosa fare. Non che oggi sappiamo chiaramente cosa fare, però l'importante, abbiamo capito, è provarci e dare un segnale che la cultura deve esserci in una nuova quotidianità di tutti. E quindi noi, insomma, stiamo scommettendo di riaprire nonostante le difficoltà, che sono innegabili, ma lo facciamo in maniera sicuramente importante, perché oggi sarà l'orchestra, quindi l'orchestra Senza Spine questa sera, con il suo celebre conductase, ovvero dove il direttore consegna la bacchetta al pubblico, e insomma c'è la possibilità di dirigere un'orchestra e di divertirsi con insomma quelle che possono essere delle sensazioni sicuramente uniche. E poi, come dicevi, entriamo in questo progetto che è Immaginari Periferici, che è un modo del mercato sonato di raccontare il quartiere in cui vive, quindi il quartiere San Donato, raccontato però sotto linguaggi diversi dell'arte, dal teatro musicale all'illustrazione alla musica contemporanea al circo e all'accompagnamento insomma musicale. Perché appunto ci sarà domani lo spettacolo Mitica, Narrazione Elettrica, con Andrea Ciai, che è appunto uno spettacolo, una nuova produzione di teatro musicale. Il venerdì invece ci sarà l'Istantanea Ensemble con il noto disegnatore Stefano Ricci, e il 3 e il 4 invece ci sarà Magda Clan, il circo di Torino, appunto il circo contemporaneo, che ha già collaborato con l'Orchestra Senza Spine in questo spettacolo che si chiama Sinfonia Circense. Quindi 5 giorni importanti proprio per dare un segnale di ripartenza, che ci deve essere, possiamo aspettare. Giornate molto intense, deve essere molto bella questa coniugazione tra in realtà il circo e la musica classica appunto dell'Orchestra Senza Spine con Magda Clan. Sì, è una collaborazione appunto che abbiamo già sperimentato più volte l'anno scorso, anzi 2 anni fa ormai. Abbiamo fatto questa opera che si chiamava Masnada, quindi un'opera circense, come l'abbiamo chiamata, e è una collaborazione molto bella perché musica e gesto si sposano perfettamente. Siamo più abituati a vedere la danza e musica, invece il circo contemporaneo sta benissimo, poi soprattutto quando è un circo che si sposta verso la narrazione, verso il teatro, verso il racconto, quindi non il numero fine a se stesso, ma che dietro c'è una poetica, c'è una volontà di esprimere qualcosa di diventa un vero e proprio storytelling particolare. Esatto. Quindi siamo molto contenti di questa collaborazione. E poi, come già dicevi, il mercato sonato apre ed è un'apertura piena di eventi. Tutto il mese di ottobre potete vedere tutti gli eventi, insomma, nei siti, nei social, eccetera. Però è una programmazione molto fitta, addirittura più dell'anno scorso, e questa è un po' la scommessa su cui ci stiamo avventurando. Vogliamo esserci, i posti sono limitati, anche il metodo d'accesso purtroppo è condizionato alla tecnologia, nel senso che bisogna prenotarsi o comprare i biglietti online proprio per evitare assembramenti all'ingresso, eccetera, tutte cose che purtroppo ormai conosciamo bene, però il tipo di proposta è veramente a 360 gradi, sia nei generi, e questa è la caratteristica del mercato sonato. Passiamo dal mercoledì della musica classica al sabato con serate invece più da o di ascolto puro oppure anche di teatro musicale, di musica elettronica, insomma di generi dove la musica non ha confini, ma anche a livello di età, nel senso che abbiamo spettacoli che sono adatti ai bambini, ad esempio i concerti animati del sabato e la domenica, che vanno appunto ai bambini di 3 anni, e invece anche spettacoli per un pubblico più adulto, come può essere anche insomma spettacoli legati al tango, alla musica classica per i più puristi, insomma. Quindi un po' il mercato suonato vuole essere un luogo di cultura un po' per tutti. Vuole essere quindi un luogo inclusivo, come in realtà lo è sempre stato. Quest'anno, come dicevi anche tu, è una scommessa secondo me vincente, o comunque Radio Città Fujiko ci sarà, vuole esserci, e vi augura che insomma possa andare tutto per il meglio. Come hai detto tu, è un calendario fittissimo, lo pubblicheremo anche noi sul nostro sito www.radiocittafujiko.it. vi ricordiamo che parte da questa sera l'inaugurazione, queste 5 giornate piene di eventi, come giustamente dicevi anche tu, musica, teatro, arte, illustrazione. Queste giornate che appunto ci saranno impegnati artisti e tecnici al fine di restituire l'immagine originaria dello spazio del mercato suonato, che vuole esplorare e raccontare attraverso i diversi linguaggi artistici. Credo che sia questa la chiave vincente, come benissimo hai raccontato tu, i diversi linguaggi artistici. Assolutamente, e soprattutto linguaggi che si possono apprezzare solo dal vivo. Questo deve essere importante, perché purtroppo nel lockdown ci siamo abituati a percepire l'arte e il linguaggio tramite degli schermi, e invece non può esistere, non può vivere il linguaggio artistico solo dietro uno schermo. Bisogna viverlo dal vivo proprio, altrimenti sarebbe una contraddizione proprio in partenza. E per questo noi anche con questa programmazione vogliamo chiedere al pubblico di mettere un pizzico di coraggio in più rispetto agli anni passati, perché oggi rischia di essere veramente quasi un divieto quello di andare in un luogo al chiuso a poter gustare uno spettacolo. E l'unico tassello che non deve mancare è la volontà di vivere l'arte, di vivere lo spettacolo in maniera attiva, quindi dal vivo. Allora noi apriamo le nostre porte e speriamo che la gente, ecco, capisca che c'è bisogno di pubblico, perché altrimenti gli artisti purtroppo servono a poco. Assolutamente, allora noi ti ringraziamo e lanciamo, ti salutiamo con una canzone molto allegra, Yuppies di Luca Barbarossa, e appunto rinnoviamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici di andare, come giustamente hai detto tu, basta guardare e ascoltare musica solo da uno schermo, ma torniamo live con la sicurezza che comunque c'è ed è garantita anche dal mercato suonato, quindi vi aspettiamo in questi 5 giorni di inaugurazione, poi con la stagione che prende piede per il mercato suonato. Grazie Tommaso, e un grandissimo in bocca al lupo da tutta Radio Città Fujiko. Ciao. Ciao. Ciao.